che risponde. Per piacere, ti prego. Il telefono, se ce lo incuscio, aspetta che va, va. Io le dirò, sino a 10 anni la monata le porta a regali, poi dopo 10 anni no, non le può più portare perché non ce la fa per tutti i bambini. Sure.